want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Telespo. Annunciare la puntata di oggi con, a grande richiesta, il ritorno al soundcheck di Radio 24 di Greta's Bakery. Ladies and gentlemen, put your hands together, Greta Panettieri al soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio, Greta. Buon pomeriggio a tutti. Posso dirti che sei la prima artista che ritorna qui al soundcheck nell'arco di 40 puntate. Eh sì, guarda, sono felicissima. Queste sono le vere soddisfazioni. È una soddisfazione anche per me, perché quando sei venuta durante la seconda settimana di programmazione del soundcheck qui su Radio 24, annunciasti la pubblicazione del nuovo disco e quindi siamo pronti per annunciare che il nuovo figlio è nato. È nato una ventina di giorni fa neanche, e sono veramente felicissima, felicissima. Greta Panettieri, ospite del soundcheck di Radio 24, una delle mie vocalist preferite, romana di nascita, umbra di adozione, ma newyorkese per opportunità di lavoro, lo posso dire ormai da quasi una quindicina di anni. In questo momento è ritornata in Italia proprio per promuovere la nuovissima pubblicazione con la sua band Greta's Bakery, album nuovissimo intitolato Under Control, con una novità, perché Greta, che ha avuto alle spalle un bel contratto discografico con una multinazionale, ha deciso per questo album, con il suo co-producer e partner nella vita e nella discografia, il favoloso Andrea San Martino, di diventare completamente un artista indipendente. Che esatto. Cosa significa e perché questa scelta? Ma la scelta dell'indipendenza, lo dice un po' la parola stessa, è un riprendersi la propria vita. Ovviamente ci sarebbero tante cose da dire a questo proposito, però lavorare con una multinazionale per il primo disco è stato quasi scioccante, molto difficile per tanti aspetti, e quindi diciamo che c'era proprio la voglia di fare le cose quando le vuoi fare tu, come le vuoi fare tu, e proprio sì, di libertà, che altrimenti insomma viene molto a mancare quando lavori con una major, purtroppo. Però nel mio caso è stato così, insomma. Però le soddisfazioni sono tantissime, perché hai il controllo al 100% di tutte le operazioni, e sono diverse, perché non solo bisogna entrare in studio, registrare, convocare i musicisti, fare il lavoro da musicista e da producer, ma poi una volta che il disco è finito, mixato e masterizzato, c'è un altro lavoro da fare, lo state facendo personalmente, che è quello proprio del promoter, del distributore e via dicendo. Sì, è molto dura, però diciamo che ultimamente le major si affidano comunque all'artista per fare tutto questo lavoro, e quindi diciamo che almeno a questo punto lo fai veramente per te stesso, con molto entusiasmo, altrimenti la major insomma si aspetta che comunque sia tu a promuovere il tuo disco, ti affida compiti non meglio identificati, quando chiedi informazioni devi aspettare settimane prima di avere risposte, perché una mail deve passare per il segretario, poi deve passare per questo e quell'altro, e quindi diciamo che la mole di lavoro alla fine è, se non di più, la stessa quella per la major, però a questo punto almeno i risultati li vedi subito, sei tu e te stesso, che è molto difficile ovviamente per molti versi, però ha i suoi perché. Quindi cosa significa distribuzione indipendente, come funziona? Siete presenti in internet, dove su iTunes si trova il disco, e avete lavorato con una distributrice famosa in tutto il mondo, distributrice americana, che si è accollata la responsabilità di portare la vostra musica in giro per il mondo. In che modo? Via internet. Questa è una grande differenza. Il mio primo disco, che è stato pubblicato per la Decca, niente po' di meno che in America, grande soddisfazione, eccetera eccetera, è solo disponibile negli Stati Uniti, invece questo disco per magia si acquista ovunque. Allora, su iTunes troverete Greta's Bakery, il brano che ho scelto, l'ho scelto io, posso? Ok, il brano è bellissimo, si intitola Tell Me Why, Greta Panettieri, Greta's Bakery, qui al soundcheck di Radio 24. Hey, Eh sì, una grande soddisfazione vedere la pubblicazione di un nuovo disco e sapere di aver fatto un bel lavoro e di avere la responsabilità al 100% di tutte le operazioni che riguardano anche la distribuzione e la visibilità della propria musica. È quello che ha fatto Greta Panettieri con i suoi Greta's Bakery qui al Soundcheck di Radio 24. Restate con noi. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Feeling Good, un brano scritto nel 1964 per un musical e poi portato al successo dalla versione indimenticabile di Nina Simone, qui però nell'edizione onirica e visionaria della strepitosa bassista, musicista, compositrice, arrangiatrice e producer Michelle Indegee Osello, prodotta molti anni fa. Il primo disco di Michelle è stato prodotto dalla bravissima Madonna, che non solo è una strepitosa producer ma ha sempre avuto gusto anche nella scoperta di nuovi talenti, e mi auguro che la nostra Greta Panettieri, nostra ospite oggi per presentarci qui al Soundcheck di Radio 24 alcuni brani presenti in Under Control, questo è il titolo del nuovo album di Greta's Bakery, possa fare più o meno lo stesso tipo di percorso. Per ora produci la tua musica, ma mi auguro che tu possa produrre nuovi artisti utilizzando questi mezzi e questa tecnologia. Assolutamente, assolutamente. Beh, diciamo che oggi scoprire nuovi talenti, e spero anche io di fare parte di quella categoria, è molto più facile, anche ovviamente grazie alla rete, a Spotify, tutti questi nuovi mezzi di ascolto di musica libera che ti permettono appunto di scoprire tantissime cose meravigliose. Però la musica va fatta poi attivamente sui palcoscenici, e tu sei una performer strepitosa, a New York ti sei fatta notare subito per la versatilità, cantavi e canti di tutto, e adesso in Italia sei impegnata in diversi progetti, quindi c'è la promozione del disco nuovo, però non ti fai mancare una intensa attività concertistica con varie cose. Che cosa stai facendo? Ma sicuramente Greta's Bakery, ogni tanto suono con un bravissimo cantante che si chiama Gigi Telesforo. Vabbè, quello abbiamo fatto anche quelle cose insieme, speriamo di tornare a collaborare prestissimo, però insomma vorrei parlare della tua attività come solista. E poi ho questo progetto che si chiama, diciamo il titolo vero lo sto ancora cercando perché ho scoperto di non poter usare il nome della grandissima artista a cui faccio questo tributo. Comunque è un progetto dedicato a Mina e stiamo facendo dei concerti di jazz, questo è un progetto proprio di jazz su queste canzoni, diciamo, di Bruno Canfora, le più antiche che cantava Mina, e ci sta dando grandi soddisfazioni, stiamo girando bene con questa cosa. C'è un'altra cosa che fai ogni tanto per divertirti, è fare delle performance in giro per Roma, non in un club ma in giro per Roma. Sì, sul mitico tram jazz, è una cosa deliziosa, un'avventura romana molto carina, e sul tram suono un po' tutte le mie facce perché vado da Greta's Bakery alla musica brasiliana, addirittura il forró mi è venuto di cantare. Che ti devo dire, Gigi? Fermatemi. Ecco, tu, ma come funziona? Perché io non ho mai avuto il tempo di venirti a trovare. Cioè, si sale su questo tram e il tram gira per Roma? E voi suonate? Più o meno, il tram gira per Roma, fa il tragitto storico dei vecchi tram romani, e poi in due pause, una a Galleria Nazionale e una al Colosseo, c'è proprio la fase concerto. Quindi, diciamo, quando si suona non c'è attività né mangereccia né di altro genere, quindi è molto bella l'atmosfera che si crea perché il pubblico è chiuso lì e non possono far altro che ascoltarti, quindi è sempre molto molto carino. E suoni circondato dalla bellezza di una città come Roma, naturalmente di notte, e quindi tutto ha un fascino diverso. Che bella vita fanno gli artisti, e una bella vita la fa anche Diane Reeves, che è un'artista strepitosa, ha vinto i Grammy Award e ha intitolato il nuovo disco proprio, ma non nuovo, ancora più nuovo, perché il disco verrà pubblicato nel 2014 negli Stati Uniti e in Europa. Per ora c'è soltanto l'edizione giapponese, ma noi siamo riusciti a procacciarci questa pubblicazione con i nostri pusher internazionali di discografia. L'album si intitola infatti Beautiful Life, è proprio una bella vita quella di Diane Reeves, circondata anche per questo album da strepitosi musicisti, e qui ascoltiamo 32 Flavors, Diane Reeves al Soundcheck di Radio 24. contatto per la prova del suono di Radio 24, qui con Gegé Telesforo e con me la bellissima Greta Pannettieri. Ti piace quando ti faccio questi complimenti? Anche perché sei una brava cantante, però mi sa che poi sempre qualcosa di femminile, devo toccare qualche tasto, no? Allora, Greta Pannettieri, nuovo album per lei con i suoi Greta's Bakery Under Control. Parliamo di questa produzione, come avete lavorato? Una gestazione lunghissima, quasi 3 anni di lavoro. Sì, diciamo, il disco è iniziato addirittura a New York, appunto 3 anni fa, quindi lasciando l'America avevamo già iniziato a scrivere i nuovi brani ed eravamo già in contatto, erano i primi contatti con Larry Williams. E il disco ovviamente è... Chi è Larry Williams? Beh, Larry Williams per gli amanti della musica, un po' in generale del jazz, è un grandissimo sassofonista, tastierista e produttore, per dirne una. Ha arrangiato Thriller di Michael Jackson, per dirne un'altra. Ha appena finito... E adesso facciamo scopa fra pochissimo, eh? Infatti, ha appena finito l'ultimo disco di John Mayer, insomma, suona ancora con Al Jarreau, insomma... Devo dire altro, è un grande, che così è stata una casualità, abbiamo conosciuto e lui è stato incredibile con noi perché si è appassionato al progetto e lasciatemelo dire, gratis, senza altri fini, per null'altro che per passione. Sicura? Sono sicura. Ah, non so, devo chiedere ad Andrea, forse lui ne sa più di me. No, scherzo. Comunque, insomma, è una grandissima soddisfazione che si è appassionato nel vero senso e ci ha molto seguito nella produzione artistica e poi ci ha donato un meraviglioso solo di sassofono, così, e quindi già questo per me è stata una soddisfazione. È un disco prodotto in maniera indipendente, ma è un disco pieno di roba, di musicisti, sezioni di archi, bellissime ritmiche, musicisti che arrivano da tutta Italia e da tutto il mondo, cori, sezioni di fiati. Quanti musicisti hanno collaborato con voi? Ma saranno una ventina, diciamo, abbiamo... Ma perché... Quindi una produzione da multinazionale. Esatto, non ci facciamo mancare niente, Gegé, assolutamente. Fra i brani presenti in questo album bellissimo, c'è anche una rivisitazione di uno dei tuoi artisti preferiti con un brano meraviglioso. Sì, I Just Can't Stop Loving You di Michael Jackson. Sì, è stata un'idea, una folgorazione. L'ho sempre voluta fare una canzone di Michael Jackson, però che ti metti a fare? I Wanna Rock With You? Impossibile, la può fare solo lui, secondo me. E poi una sera in macchina eravamo con Andrea e stop! E stop! Loving you. E quindi è venuta da sé la canzone e abbiamo deciso di registrarla. I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. And if I stop, then tell me just what will I do. I just can't stop loving you nella versione di Greta Pannettieri con i suoi Greta's Bakery dall'album nuovissimo intitolato Under Control, che troverete in vendita su iTunes e sui migliori siti di discografia. Che cosa? Anche sui miei siti Greta's Bakery e gretapannettieri.com. Fatto bene, si trovano anche gli appuntamenti con i concerti, Greta? Certamente, c'è tutto. Allora, io vorrei chiudere questa puntata del Soundcheck. Intanto ti faccio i complimenti, gli auguri per i concerti, per il disco, e poi sai che abbiamo ancora tanta musica da fare insieme. Vorrei chiuderla però restando su Michael Jackson e ti propongo un artista che non so se conosci. Si chiama Malika Tyrolean, è una cantante pianista canadese con origini delle Guadalupe, che ha rivisitato anche lei Michael Jackson in Thriller. Fantastico, non vedo l'ora di ascoltarla. Ecco, qui sta partendo il groove di Thriller e noi vi salutiamo. Grazie a Greta Pannettieri, un abbraccio al tuo producer Andrea San Martino e grazie a tutti voi, buon pomeriggio e buona musica qui dal Soundcheck di Radio 24 e da Gegé Telesforo. It's close to midnight and something evil's lurking in the dark. Soundcheck. Il suono della musica.